siamo con te per parlare di Ritratto d'artista al Teatro India da oggi fino al 9 di aprile. Raccontaci un po' tutto, Lisa. Questo Ritratto d'artista è un progetto che il Teatro di Roma ci ha chiesto di disegnare per il Teatro India. E noi lo abbiamo intitolato Confini, come l'anno scorso abbiamo lavorato su linee di confine, tutto il grande cantiere multidisciplinare che partiva, che prendeva innesco dal Lear di Bond. Quest'anno, con il appunto, nuovo Lear di Bond, abbiamo ragionato in modo diverso. L'anno scorso erano linee di confine, quindi i confini fra le diverse arti, i confini intesi in quanto muro, perché gli Hardy Bond appunto sostanzialmente tutta la vicenda gira intorno alla costruzione e all'abbattimento di un muro, e quest'anno ci interessava ragionare soprattutto sulle diverse scritture, cosa che tu capisci benissimo, quindi i confini, quali sono i confini, sì. Che cosa poi nelle drammaturgie, nelle tante scritture e letterature, che filo rosso possiamo tirare tra le diverse scritture. In questo caso ci sono, diciamo, sostanzialmente sono quattro progetti più un evento speciale, cioè il Lear di Bond, che è il fuoco forte, sono 12 repliche da oggi fino al 9. Sì. Fuori da Teatro India c'è, e anche dentro il foyer c'è un'installazione con le grandissime fotografie del frontiere di tutto il mondo di Kai Diedenhofer, un fotografo tedesco che ha cominciato a fotografare tutte le frontiere del mondo dalla caduta del muro di Berlino, quindi anche gli spazi esterni di Teatro India sono trasformati. E di seguito, sempre da oggi, fino al 9 aprile, ogni giorno alle 7 di sera, mentre il Lear di Bond è alle 9 di sera, in altri spazi, nello spazio di Indiateca, avverrà di nuovo IS-003, quindi la stazione orbitale che noi abbiamo presentato per l'estate romana viene ripresentata agli spettatori. 24 spettatori che con 24 cuffie potranno scegliere al loro piacimento se riascoltare Solaris, ascoltare tutti i racconti che abbiamo raccolto, gli altri romanzi che sono Minority Report con Marco Foschi, Minority Report con Elio De Capitani, che sarà il nostro Lear di Bond quest'anno, o Blade Runner con Marco Foschi, fino alla Guida Galattica per autostoppisti. Che ascolteremo la settimana prossima. Esattamente, la Guida Galattica per autostoppisti scena il 10 aprile come serata evento unica, concludiamo tutti i lavori di confini qui sempre a Teatro India alle 9, quindi finiamo con questa balera Motown, questo rock folle dedicato a Douglas Arthur, tanto folle chiaramente, e poi c'è un evento che invece non avviene dentro a Teatro India ma avverrà sullo sperone di Teatro Argentina, presentiamo la lettura inedita di un testo meraviglioso di Andrew Bowell, che è lo stesso, è un drammaturgo australiano che ha scritto anche Lantana, un gran bel film sempre australiano. Con una bellissima colonna sonora, Lantana. Esatto, esatto, con una bellissima colonna sonora. E questo testo si intitola When the Rain Stop Falling, ed è un piccolo gioiello sull'eredità, sul ricordo e sull'amore, che però ha qualcosa di fantasmatico e quasi fantascientifico, perché racconta una famiglia in modo molto peculiare, avanti e indietro nel tempo, dal 1956 fino al 2036. Mm-hmm. E però in realtà parte nel 2036, quindi come vedi, per tornare ai confini, alle scritture che comunque si parlano tra di loro anche di lontano, e Lear di Bond e tutto il ragionamento sull'altro e sul confine per noi è assolutamente prossimo a quello che poi sono i modelli sperimentali delle scritture di fantascienza, sì. E d'altro canto questo testo che abbiamo trovato grazie a Elio De Capitani, vedi come tutto torna, e che ha tradotto Margherita Mauro, sì. Formidabilmente secondo me è probabilmente il nuovo progetto della compagnia, perché ce ne siamo innamorati tutti, e quindi lo presentiamo una sera, vogliamo verificare all'inglese con il pubblico come gli arriva, in forma di lettura molto accurata, concertata, e poi capiremo cosa fare di noi nel futuro. Ripeti il giorno? Assolutamente, 3 aprile, che è un lunedì sempre, ingresso libero, abbiamo voluto l'ingresso libero insieme al direttore Calvi, che è stato d'accordo, proprio per aprire la lettura a tutti, negli spazi del Teatro Argentina alle ore 21. Benissimo. Allora, Lisa, due curiosità rispetto al lavoro del Lear di Bond, la vostra messa in scena, e poi qualcosa rispetto agli appuntamenti futuri di IF, se ci saranno sviluppi. Allora, per quanto riguarda gli Eddie Bond, sono messa in scena, abbiamo scelto di lavorare in questo strano palazzo, cantiere non compiuto, come se fosse un palazzo andato in rovina ma molto ricco, un cantiere mai finito, senza radici, come appeso, come sempre mobile o sull'orlo di un crollo, o che ha perduto proprio le proprie radici, come entrato nel senso profondo dell'eredità. Abbiamo discusso lungamente su cosa dovesse essere questo muro poi fisicamente, e la soluzione che abbiamo trovato la vedranno gli spettatori, a un certo punto era l'unica possibile. Per quanto riguarda questo nuovo Lear, è la cosa più straordinaria, chiaramente, essendo insomma tutti gli attori del Lear in scena, che sono Emiliano Masola, Alice Palazzi, Pilar Saspa, Diego Sepe, Francesco Villano, Anna Mallamaci, Fortunato Leccelle, quando è arrivato agli Dei Capitani a ridisegnare Lear, in che senso? Nel senso che la sua comprensione profondissima del testo di Bond, in realtà su e giù, in costruzioni e distruzioni di muri veramente a tutto il Novecento, questa comprensione profonda e radicata in ogni battuta ha determinato tutte altre relazioni in scena, perché poi il teatro è fatto dagli attori, sono loro che ce lo fanno fare a noi registi, no? Sì. E senza di loro non si farebbe niente di niente, per quanto si fatica a capirlo ancora oggi. E quindi chiaro, lo spettacolo è modificato profondamente, si è chiarito, è diventato più nitido, io ho maturato la regia, ho capito cosa non funzionava, cosa avevo coperto con abilità e non avevo più bisogno di coprire. Mm-hmm. Okay. E quindi appunto questa strana scena è a metà tra un realismo feroce e fantasmagorie le più folli come Maschere di Maiai in fondo scena, che coabitano e che tenta di raccontare e raccogliere con un setaccio tutto questo stranissimo doloroso Novecento che ci portiamo appresso, ma anche con molta leggerezza a tratti. Sì. E per If? Mi hai sentito? Non lo sappiamo, dipende. Federico, lì si passa a una questione proprio di politiche culturali, e lì appunto ringrazio prima di tutto Teatro di Roma, perché è stato lo sostenitore di sempre, e anche l'invito a questo ritratto d'artista, a questo progetto di cui fanno parte varie compagnie, ci sono varie compagnie che fanno ritratti d'artista, no? Sì. È un po' una risposta al tentativo di questa città che sta via più collassando. Tentativo chiaramente, e quindi andiamo all'estate romana. Io non so assolutamente che tipo di bandi usciranno, e non so anche se usciranno, se saranno dei bandi che ci mettono in condizione di fare delle cose che riconosciamo, perché poi è diventato un meccanismo perverso. Certo, noi certo. Amiamo profondamente IF e abbiamo scavato altre scritture, stiamo continuando a fare anche ricerca, però dobbiamo farlo come sappiamo farlo, quindi con dei bandi di sostenibilità reale, non delle gogne, perché altrimenti accettare è una forma di connivenza, di compromissione, no? Certo. Già l'anno scorso abbiamo deciso di farlo in modo pubblico, a titolo gratuito riguardo a noi, cioè non ci siamo pagati, perché era, come dire, anche la città era in grande sofferenza, quindi pensavamo ne avesse bisogno. Quest'anno non so se ce la sentiamo, perché poi lo sai benissimo, se tu la cosa la fai comunque, e poi il tuo referente istituzionale ti dice beh, sei pronto a fare, quindi vai avanti. Certo. È un ricatto continuo, certo. È delicato, anche perché appunto a Roma sta succedendo, si sta svuotando la città, quindi da una parte è un discorso che dobbiamo anche un po' condividere con tutti. Quanto poi ai temi e ai luoghi di IF, stiamo trovando nuovi romanzi, scoprendo nuovi racconti, tutta una parte del cyberpunk, di Ballard, io adoro, e che non abbiamo mai fatto, per esempio, no? Stanno lì, stanno già in lavorazione. Va bene. Perché si parte dalle scritture, dall'adattamento, certo, no? Certo. E vedremo. Chiaramente sarai il primo a saperlo. Allora, Lisa, a parte che ci diamo appuntamento a martedì prossimo per Guida Galattica per Autostoppisti, e quindi parleremo anche di un bilancio di questa prima settimana. Sì. E ricordiamo Ritratto d'artista al Teatro India, ma non solo, da oggi, martedì 28 di marzo fino al 9 aprile. E ci risentiamo, ci vediamo lì, e ci sentiamo la settimana prossima. Ok, grazie veramente. Scusate, ero un attimo distratta che sono arrivata in India ora. Saluto tutti e grazie. Ciao, buon lavoro. Ciao.